Mettila a sedere che ti voglio dire una cosa. L'anno più belli della vita mia sono stati al carcere. Eh sì, un controsenso, lo so. Ma i Natali, i Capodanni, ah, e là sì che erano calorosi. E io me ne sono andata piccola da casa. Cercavo la famiglia fuori dalla mia proprio carnale. Perché non riuscivo a accettare certi tipi di modalità. E quindi ho cominciato ad andare per strada a 12 anni. La polizia mi riportava e io riscappavo. Quando amiche mie si facevano le canne, io stavo molto più in là. La prima volta che sono andata dentro, cioè avevo 14 anni, era arrivata una partita doppio. Siccome che fumavano tutti, io mi pensavo che era fumo. Oh, è normale! Era troppo ingenuo. E 6 mesi dopo hanno carcerato la persona che ci portava l'oppio e là non mi sono fermata. Là ho cominciato furti, rapine, tutto. Con i miei abitavo a Torlupara. Sicché l'ambiente è strada, c'è stavo e c'è sto ancora. Mamma preferisce evitarla la gente. L'unica amica che mi è rimasta è Katia, che però è cascata. Vanno a prendere una cosa e si è sfragnata al ponte Casilino, mo sta a fare la terapia. E a Rebibbia con lei mi trovavo bene. Eravamo impegnate coi corsi. A noi ci piace tanto giocare a pallavolo. Insomma, fuori non sono mai stata così spensierata come in galera. E ci ho avuto un bambino nel 2003. Soltanto che me l'hanno tolto. Mamma, gli assistenti non stanno a fare avvicinare. All'inizio il servizio sociale a chi l'aveva preso gli aveva consentito che si potevano far chiamare papà e mamma. Io quando me ne sono accorta... Oddio, quando me ne sono accorta! E beh, gli ho detto no. No! Non è giusto! Perché il papà e la mamma pure si stanno in comunità e il tuo c'è là. A lui gli piace tanto chiacchierare con me. È il momento dei perché. Chiede tutto perché. E io mi metto là e gli spiego. E mio padre non mi riusciva mai a spiegare cose. Inocchio mi diceva, non è che mi spiegava il perché. Eppure lui era cresciuto così. Insomma, è intervenuto un po' delle litigi con l'affinatari. Perché se vede che avevano calcolato che io non gliela facevo e che il ragazzino restava loro. Adesso ci hanno capito che prima o poi ritorno a casa. Al compleanno solo me l'hanno voluta. Vabbè, va, l'essere umano è così. E io sono andata tanto in giro, da cricchettona proprio. Fuori d'Italia non ci sono mai stata, perché il passaporto non l'ho mai preso. Però ho viaggiato. A Verona. A Verona mi è piaciuta tanta arena. E il balcone del Giuliette Romeo. Firenze pure mi è piaciuta. Però come Roma. Come Roma non c'è stato nessun altro posto. Oh. E io sono romana. E te invece non sei romano, professor? No. No. Io sono nato in una città che si affaccia... morto le settice via. Durante la disintossicazione e la suppurazione, invece di sortire all'esterno, gli sarà filata tutta dentro. E sangue si è mischiato col pus. Un macello, dal dolore non ragionava più. Mio, mi dico Marì, hai fatto tanto, sei arrivato fino a qua, e resisti, no? E che io come donna sono ancora in rodaggio, e meglio mio devo ancora dare, nel lavoro mi trovo tra due fuochi, e non mi so decidere, che la disinfestazione cooperativa me danno 800 al mese. Ma che ce faccio con 200 quando ne rio il tubo? C'è sta l'amica mia, no? Che fa golf. Che mi ha fatto balenare un'alternativa che non so se potrò mostrare all'altezza, perché non ci ho le coordinate ancora. Le fa la cosa di una società d'impresa. A cosa? Che cosa? A cosa? A prestanome. Oddio! Oddio, ma è quello che mi hanno chiesto di fare gli amici di Mauro. Ah, oddio, una prestanome. Ecco che sono diventata una prestanome. Allora? Oh, io la volevo fare, no, non mi andava ad avere il bici, andava ad avere complicazioni. Ma questo hanno insistito, mi hanno detto, ah sì, mo ce vogliono persone di fiducia, no? Io poi sono pure laureata. Ma davvero? Sì. Le cose le sono messe in bella forma. Se no perché ti sei sposato il Maurello? Hanno detto così, capito? Una provocazione, no? Io pure contento che aveva detto di sì. Oh, che ne so. Mi pareva che appena volta la scelta mi fosse andata bene. E invece? Ma di che? Oh, a me ogni scelta che ho fatto mi è andata male. Ma dimmi a me. Mi dispiace. È che... E che prima di fare veterinaria, no? E d'andare a lavorare al negozio qua sotto e di sposarmi Mauro. Ma ero infatuata, sì. Ma ero infatuata di sto steward, no? Dell'Alitalia. Che vabbè, ora l'Italia ha lo stessa, no? Però prima... Bello, eh? Arto, eh? E onesto, che mi aveva detto che lui aveva già un'altra fidanzata ufficiale e di classe elevata e che non avrebbe mai lasciata. A me non mi importava. No. Uscivamo dopo mezzanotte. E stavamo a divertire. Poi questa è rimasta incinta. E io mi sono ritrovata sola come un cane. Uno così distinto non l'ho più trovato, eh? E no. E allora mi sono sposata Mauro. Ci siamo sposati in chiesa, eh? Sì, ma fin da subito ho capito che non sarebbe stata una passeggiata. Manco sei usciti sul sagrato che non giusto ero sporcato quel bel vestito chiaro da Armani. Vabbè, che dei deficienti, no? Invece di tirargli il riso crudo, gli hanno tirato degli arancini con dentro risotto agli aspari e già muore in bomba. Dentro casa però gli dico questo. Io vorrei che lui collaborasse, ma tanto poi non mi fido. Quindi sai che faccio? Rispolvero, rispazzo e rilavo tutto quello che lui ha lavato, ha spazzato e ha spolverato, sì. E il letto nostro sembra il campo di battaglia, sa? Soprattutto verso l'alba. Lenzuola che s'aggroviglia, a un certo punto partono certe sberle involontarie. Quando arriviamo a colazione sembriamo reduci del naufragio. È che lui si vuole addormentare, no? Dalla parte sua del letto, senza disse una parola, senza farsi una chiacchiera, che ne so, una coccola, o senza un po' di strusci, senza niente. Vuole solo stare dalla parte sua del letto e aspettare i sogni da favola. Io vorrei essere plasmata. La smada, sì. Ma c'ho troppo rispetto per me stessa, eh? La verità? La verità, no? È che io ora fa un filo. Ma lui mi piace fare l'amore con me soltanto quando so le cose mie. Dice che lo eccita a sporcasse di sangue. Allora gli dico, vabbè, d'amore, almeno usiamo il preservativo, no? Ma credo che lui si vergogna. Deve vederci se detto lo sperma chiaro chiaro come l'acqua. Lo sai che c'è, Maure? Che il maschio è un espediente inventato dall'evoluzione per risolvere difficoltà ambientali moltiplicando gli embrioni. In un mondo perfetto, la tecnica più semplice di riproduzione sarebbe per partenogenesi da organismi esclusivamente femminili. Che te sei mangiato, il vocabolario? Me l'ha detto il professore mio! È che da quando non abitavo più in borgata, no? Ci siamo trasferiti qua in prati, dentro sta bella casa. Ma ora è cambiato. Ha perso tutti quegli automatismi animali che mi avevano fatto innamorare di lui, no? E mo pure per ogni minima cosa ci deve pensare suo. Oh, e poi è sempre scorato, nervoso, con sto cuore che gli va a 2000, oh. Che la paranoia costante di essere intercettato. Cioè, io gli ho detto, no, ora cosa la fai, cosa la fai? Te c'è butti e preghi, Dio è nano. Sta tutto il giorno che la paranoia, non sei più. Fai soldi per lui, se è più un dovere che un piacere. Vabbè, è preoccupato per sta finta società che abbiamo fatto, no? Questa non mi ha fatto fare da presta nome, che poi si chiama Renova, è un acronimo, ho scelto io, no? Che poi a me mi piaceva pure perché dentro c'è sta un sacco di bella gente nuova che poi incontra e poi conosce, no? Allora ci sta sto musicista di Santo Domingo, no? Che vabbè. Poi c'è sta l'elettricista, una ragazzetta rumena con figlio, e poi c'è sta, no? Sto ragazzetto caruccio che c'ha ora 20 anni, che si chiama Enrico, ma tutti lo chiamano Righetto. E a me che pensavo, questo mi piace perché mi fa proprio un distinto di mamma, no? E mi verrebbe da abbracciarmelo tutto, datemi lo stretto e da proteggerlo. Ho passato l'infanzia in collegio. Mia madre non mi poteva tenere perché lavorava da una famiglia, ma mi veniva a trovare. Il giovedì, ma accorgevo che era mia madre perché veniva e mi menava. Vabbè, no, che lei è stata educata con le mani, no? A lei mi menava sempre mia nonna, sicché pure lei quando mi veniva a trovare. Con due a un certo punto pure le sorelle l'hanno denunciata per percosse. Poi sono uscito, sì, a 18 anni, ma mia madre è morta poco dopo per un tumore. Non aveva manco fatto un tempo a finire di pagare i cambiali. Sai, ignoranza, i vai, i figli. Solo che i buffi ce la paga una famiglia di ebrei. Sicché quando è morta, quelli si sono ripresi casa. A 20 anni, senza casa, sono andato a lavorare a Brescia, una discoteca. Però là mi sono innamorato di una cameriera, si chiamava Maria. Oh, di un amore romantico, eh? Solo qualche bacetto. Sì, perché lei c'ha la paura della sorella più grande che gli diceva che io ci volevo solo scopare. E non era vero, io mi ero innamorato veramente. Eppure lei. Vabbè, c'ho la paura della sorella! Con lei mi sarebbe piaciuto mettermi a fare la terra. A lavorare i campi! Sì, perché quando ero piccolo mi portavano sempre da mio zio, lui c'aveva i campi e tutti i suoi. E lui mi ha imparato tutto, io ero pure bravo, capito? A fare le cose, a zappare la terra, a fare la rughetta. E con lei mi sarebbe piaciuto mettermi a fare quello. A lavorare i campi! Allora l'anno dopo sono tornato a Brescia. E lei si era sposata un altro. A Roma è grigio da più di 10 giorni. Strano. Grigio e freddo. Come se il mondo non meritasse altro che di essere se stesso. Io mi sa che sto pure un po' depressa. Sì. Allora mi metto davanti alla televisione, no? A vedermi i film. Vabbè, quando c'è sta Mauro, perché tanto a lui interessa soltanto colonna sonora. Lui non sta mai a sentire quello che dicono. No, ma poi non diciamo io senza il telegiornale, oh! Ma che fai, arrivato? Mi sono reso conto poco che c'è testa la mamma. E che te credevi, eh? Che era una passeggiata di salute? È Al Jazeera responsabile di tutta, capito? Al Jazeera! Hanno visto il telegiornale e si sono ispirati! Ma che? Enrichetto, certo, si è azzardato troppo. Era convinto Capita che era debitrice. Pensavo di poter fregare che non doveva. Hanno legato un olivo. Solo che è mutante. E lì è arrivata la prima pietra. E il primo rosso si è visto che gli bagnava il cotone. Mi sono messe le mani sulle orecchie per sentirlo, ma mi hanno levate. Se non ti va a finire, esempio! Sbagliava a tirare, oh! Tu lo fischiavano! Rampe pippe, ti sei slogata la mano! Mezzo fatto una punta, gli ha preso lo zigomo. Righetto, curaccia, inclinata la testa, pareva svenuto, pareva! Pagari! Se sentiva più strilla! Allora, quelli davanti si sono avvicinati, capito? Così toviamo meglio, capito? Se l'ha fatta più precisa, se l'ha fatta! A un certo punto ha sputato la gomma, l'otturazione. Ma allora lei è svenuto! Quando che era ridotto tutta una bottiglia a macello, non si capiva più quello che era. Ma quelli davanti gli si riuscì a levarglielo dalle mani. È l'istinto della caccia. C'è stava uno accanto a me che mi sbigliava per Maria, grazie a Preto. Sono finito la bottiglia, Simo. E che tavo mi dava, affanculo. Quei 20 metri tra lui e Richetto, 100 volte ogni secondo avrebbe voluto attraversarli per far smettere quello spettacolo orrendo. Ma non voleva finire nella lista nera. Lì ha realizzato che l'essenza del suo lavoro consiste nel non fare niente, solo obbedire, tacendo. Ma allora tanto valeva accontentarsi della vita imborgata, dove almeno si era liberi. La pippata era il relax, la monta del piacere segreto, non ste quattro strisce sul tavolo dell'ufficio per resistere fino a mezzanotte e poi essere assalito da sogni cannibali, colui che ansima lungo una scala ripida, cercando la luce. That you chose. che c'è, scimmie? E mi sa che siamo esauriti tutti e due. Ma perché ci andiamo su una bella spiaggia col sole? A rigenerarsi un po'. Dica allora... Ah, no! fatto di manifestare un desiderio non significa per forza che una lo voglia soddisfare. No. Anzi, secondo me, io ho voglia di qualcosa che non voglio. Sì. Ah, ma lo sai che sono stata in Borgata una settimana fa? Sì. Sì, dovevo fare l'esame clinico allo European Hospital. Mi spiace. Ho preso un taxi, sono scesa lì davanti. C'era questo mercatino dove ho trovato un orologino da polso, luminoso, carinissimo. 8 euro. Euro. Lei cosa ne pensa dell'architettura fascista dell'euro? Splendida, vero? Ha presente? Onirica. Comunque anche il Laurentino 38 con quell'idea dei ponti non è male. Sì, belli i ponti. Sì, belli, ma lo sai che li vogliono distruggere, no. Lo sa? Vogliono farci una passeggiata ecologica, una cosa alla Fuxas. Voglio dire, facciamo un'altra nuvola già che ci siamo. E che qui sta prevalendo un'idea di una media architettura europea. Europea? Davvero ce l'ha un po' come stile... Sì, però media. Vabbè, però... E invece le borgate non sono male, assolutamente. Andrebbero svuotate dai propri abitanti, ma... Scusa, non volevo dire... No, ma se immagini, dottore, tanto ormai che sbloccate... Sto uscendo con un palazzinaro del Laurentino. Sì, certo, uno che viene dal basso, però non lo nasconde questo vasco, onore, direi, no? No, non ha la faccia da delinquente, cioè, oddio, sono delinquenti che a volte hanno una faccia un po' tipo la sua. Ma poi lo sai, io la differenza sociale l'ho percepita sempre molto più verso l'alto che verso il basso. Guarda papà, ha fatto la carriera che ha fatto, d'accordo, ma è nato da una famiglia di contadini e ha fatto la fame. È per questo che io ho dei gusti così semplici, lo sai. Possiamo andare a mangiare a Lilton, ma se devo scegliere io preferisco un panino con la frittata, lo sai? Cimie? Ah! Oh, mo senti, torno a scena. E perché devi fare? C'è un appuntamento con sta mezza professoressa che partecipa a fare i miei sulla più antica. E dove vedete? A casa sua, stanno adesso. Me la stai a far pagare per tu bacetti col negretto? A parte che i tu bacetti al negretto toccate con gli adani. E poi tanto ormai siamo una coppia libera, no? Lasci mi risolvo e ciao, donna, ciao. Ora ti lascio che ti sta venendo qui, poi ti racconto tutto, eh. È caruccia sta collezione dei vetri... blu. Sì. Sono piccole debolezze simboliche. Sai, quando vivi da sola, anche cambiare di posto a questi piccoli oggettini magici è una cosa che tiene compagnia. Ah, le cambia, certo, no? Chi è proprio in genere, ci faccio queste faccende spirituali, capito? No, non dire spirituali, guarda, di pure puerili, non mi offendo. Infatti. No, volevo dire che per me crescere non è stato facile. Di mamma? Non mi è riuscito benissimo, diciamo. No, non mi pare, anzi, adesso è cresciuta piuttosto. No, volevo dire che se Freud non avesse inventato la psicanalisi, avrebbero dovuto inventare la guarda proprio per me. No, ma sì, lascia la stampa, sono tutte cazzate, te rubano solo i soldi questi, dammi adesso. E c'è, ragazzi. Gli uomini hanno nel DNA il germe del comando, questo arriva qui deve comandare. Se permette, i soldi sono miei e quindi li spendo come mi pare, oh no! Certo, ma assolutamente comunque sarà di forza. No, lo so, ma a volte mi scattano questi riflessi condizionati da cazzo che non lo so nemmeno io. E comunque per me, voi uomini, me ne potete dare anche tutti quanti a fanculo. Prego. Aspetta. Stiamo cominciando una cosa che siamo sicuri di portare fino in fondo o no? Cioè? Cioè, allora meglio che te lo spiego subito. Dunque, allora, io non ho niente contro le cose da una volta che... E di mamme! Però il problema è che io nel sesso... Sì. Nel sesso io sono molto meglio la seconda volta. Sì. Cioè anche proprio la terza, la quarta, la quinta. Insomma, ho bisogno di metterci un po' di tranquillità. Un po' di anima. E un po' l'anima, certo, come tutte le donne generalmente. No, questo è un luogo comune, scusa. Questa è un'imposizione culturale. Quello che dico è diverso, io parlo di un fatto fisico, capito? Cioè, io ho i miei tempi, ecco, ho come una macchina, capito? Devo fare il rodaggio. Ho capito, ma fa questo rodaggio! Ok. Ok. molto richiesto in ambienti gay. Sì, lo so. Ah, lo sai? Eh? Ah, sì, sì, lo so, perché un mio amico ieri è stato eletto orso onorario in un circolo gay. No, ma te che, ma quale circolo? A me mi ha spiegato un parente di Simone che c'ha il nostro consigliere di quartiere che è gay dichiarato proprio, no? Uno dei comunisti italiani. E questo voleva fare stesso spazio per l'orso e il parchetto di Piazza Tempione, no? Allora, l'altro giorno sono presentati tutti in consiglio con un po' di struzzo. Per piano per culo, capito? La sai una cosa? Sei molto più sexy quando stai zitto. Tu tratti le donne come se fossero uomini. Oddio, sto scopando con un fascista! No, ma lei che io sono assolutamente apolitico. D'altro canto, non essere in faccia è normale. E poi ti assicuro che da quella lì non ci sono portato minimamente. Ma che si è sposata? Perché? Ce la vedi? Ma questo... No, questa me la sono regalata io per i miei 40 anni. Ho, come dire, ho sposato me stessa. Cosa c'è da ridere? Che ma ti senti quando parli? Cosa c'è da ridere? Ma certo che voi da assista siete proprio superfluo. Se vedete che siete mai stati alla fiancilateria che per uno scontino strappato se vi stavano a lungo. Pittoresco. Sì, io. Architetto! Sì, capisci, ma c'è possibilità di recupero sì. Qua? Cosa? Ah, no, ma no, non ho interrotto nulla, non mi disturba affatto, guarda, ero qui con un amico, non... Sì, una buona notizia, va bene. Luci, mi stai vestito, Ah! Oddio, architetto, la ringrazio, io non so, non so quanto ero angosciata da questa cosa. Senti, angosciata, ora che posso aspettare? Sto parlando! Capito, ma bacio nero, no, ma fatta quello che bravo, però! Architetto? Ma io te l'ho detto che tu sei pazza, completamente proprio! No, io bene, col palazzinaro. Sono diventata una specie di adolescente idiota che scrive su un quadernetto tutte le volte che abbiamo scopato. 32. Sì! Senti, ti devo lasciare, ciao! Ecco, tutto. Ecco, ciao! Senti, vada una festa. delle cuccette a Piazza Vittorio, beh, una datemi via! Certo! Non datemi via subito! Cosa? No, no, no, no! Cosa? No, no, non me lo dire. Non mi dire che l'ha lasciato, ma io quante volte te l'ho detto che sei... Ma che fatto? Mia sorella ha lasciato partire suo figlio con quella banda di idioti per l'India. Ho capito, mo calma un attimo, che so sti idioti? Quelli, i cosi, gli arancioni. Ah, vabbè, la cosa che ti ricordi c'è là, ste cose, magari ci ha portato a lui, no? E allora bastava che lei glielo proibisse. No, ma adesso affissa con queste proibizioni, però, eh! E poi, scusa, ma fammi capire una cosa, ma devi sempre decidere te quello che è bene e quello che è male per la gente! Se è una cosa che può coinvolgere anche gli altri, scusa, sì! Sì, ma poi lo sai quanti soldi sono finiti in quell'ascia? No, lo sai! Lo sai che quel santone è scappato con la cassa? Ma ha fatto bene, si ha sfruttato gli imbecilli come a tuo nipote! Ma guarda cosa ti dico anch'io, ha fatto bene! Ma allora di che stiamo a parlare? Stavo a parlare? Del fatto che se tuo figlio è scemo gli devi proibire di dominarsi la vita con le sue mani. È certo. Ma dice, ma prova ad abbracciarlo, tuo nipote. Che c'entra? E c'entra, invece c'entra. C'entra perché pure te fate le parzialità. Mo solo perché quell'altra ragazzina c'ha la patente da malata, ce l'ha. No, intanto mia nipote non è malata. Mia nipote è non udente. Vabbè. E la religione non è una malattia, casomai è un'idea erronea. Ma che ne sa di che? Ma che ne sai di che erronea? Ma che ne sai di che erronea? L'altra sera da Ferrara. Ferrara è il male! Ma come? Oh. Per Ferrara, Giuliano, Ferrara per me è il male assoluto! Ferrara! Stop! Stop! Ma vuoi essere forte? Vabbè, ma che ci vanno a fare con te? Tanto più siete sinistra, più state fuori dal mondo! Certo. Sempre a criticare tutto e tutti, a rifiutare debolezze umane! Lucrezio, Lucrezio ha fatto bene a non fare l'isola dei famosi, è un fatto di famiglia! Ha fatto benissimo! Ma ha fatto benissimo che? Ma se vuoi lo chiama Lucrezio! Ma tu lo vuoi capire o no? Che i soldi non contano niente! E certo, e certo, è facile per te che ce la sei a Brauti, no? No! No! È la giustizia che vuole così, un po' per uno! Un po' per uno, sto cazzo! La giustizia è fatta per quelli che stanno sopra, che fanno che poi si accontentano! Accontentino! De che? S'accontentino! Con la I! Ma batterà a fanculo, va! No, ma andata Simona che sarà pure cretino, ma c'ha ancora il grosso così, c'ha! Se ne può parlare domani di sta storia, eh? Con scefalica, a mente fredda, con calma. No. No, perché il problema è che io un po' ti disprezzo. Solo che disprezzando te finisco per disprezzare anche me stessa. Che parolone! Oddio, io faccio sempre lo stesso errore, sai? Devo salvare gli altri, io voglio salvare gli altri, io. Anche quando questa cosa non è assolutamente richiesta, soprattutto è inutile. Vabbè, lo sai, no? Come diceva mia nonna, chi ha la croce non ce l'ha, chi ha un seppio se la fa. Scusa, non ho capito. Chi ha la croce non ce l'ha, chi ha un seppio se la fa. E io non posso seguirti. No, non posso. Thank you. approfittando di un losco business da curare negli Stati Uniti, Mauro parte per l'America. Il primo arrivo lo stordisce. Troppi camion, troppe corsie, troppi tunnel. E così, risucchiato dal caos e dai vizi, non porta a termine il compito affidatogli. Torna a Roma e trova Simona che ha avviato le pratiche di divorzio, una lettera di dimissioni pronta da firmare sulla sua scrivania e la denuncia dei suoi committenti che lo porta dritto in galera. Oh, a me li dice sta vincio, a me lo dico, c'era tutto io però. Sì. C'è tutto io. Sì, tu, sì. Cerca te! Cerca te! Hai detto che gatti gli alla botta si te cavi, no? Cisua. Oh, oh. Se ti serve una mano ben salita, dimmelo. Che io qua conosco tutti. Sì, grazie, Bruno, fa piacere, dove? Che è? Ma che ha fatto? A Bruno. Oh, amo. Bruno. Dimmi, amo. T'ho denunciato. Ma che davvero? Per percosse. Oh, per più sveglia che gli ho dato fuori dal tribunale! Quello non ha capito che se mi capita sotto tiro la sventra come una cosa. Mi pare il minimo, fratello. Ande? Oh! Ha saputo Marcellino? De che no? È morto. No, oh, hai capito? Marcellino è morto! Ma non è andata così. No. Marcello, io non lo vedo più. Il suo corpo è scomparso. Però lui è ben vivo. Agisce come? L'ultima istantanea che ho di lui è quella di un abbraccio. Ma non per me. Non a me. Non era a me di abbracciare. La mia sintassi c'è scritta. Scusate. Mi ero ripromesso di non parlare di me, però tutta l'energia necessaria a rispecchiarmi in tutti gli altri me la dava. Era lui. Adesso! Ma è andato a fuoco l'appartamento! Ricordo circuito! Io ero al concerto di Fiorella Mannoia. Meno male che c'era Marcello che ha visto il fumo uscire dal terrazzo e ha chiamato i pompieri. Ma professor, certi fusti. Vabbè, i danni sono stati tanti e io mi sono dovuta arrangiare dentro una stanza, insomma. Vabbè, a te che ce l'hai un appartamento che te va più a poco. Vabbè. Che io sto da Anita. E com'è? Com'è? Ma che ce lo sai che sono finita in Marbiglia? Amore. Ma so che resto domiciliati. Per quella storia della società d'impresa, no? Per fare la cosa, la presta nome. Me ci hanno messo a mezzo, mi hanno fregato un'altra volta. Oh, io a Rebibbia ci sto sempre bene, eh? Poi c'è stava calata, abbiamo fatto un sacco di cose. E il pupo tuo? È quella la tragedia, il pupo mio. Mi sa che l'ho perso. A te non mi voglio aiutare. E mo vedi. Magari mi hanno letto dentro al consiglio comunale. E pare che mi danno una casa al centro. Oddio, aiutami. E fammela per pure a me. Mo vedemo! Con sto partito dei mezzi in chiesa Roli. Hai visto come si sono comportati con Valeria? Manco il funerale in chiesa gli hanno voluto fa, sti stronzi! Non hanno capito che quello era il funerale della borgata! Mo lei sta in loco di verità! Eh sì! No, te cucina! No. Ma Mariciotta faccia! Ciao. Buonasera, signoria. Porella Valeria, però, quanto ha sofferto. E quante se ne siamo dette, professor, si ricorda? Però io voglio un sacco di bene. E mo... Vabbè, mo... Ciao, professor. Mannate, ve ne a morire ammazzati tutti quanti. Oh. Non la Roma del Pantheon, Piazza Euclide. Non i busti di gesso che si ammirano da Gianicolo o il giro di cupole e campanili che disegnano i gabbiani dalla terrazza Olivetti a Piazza Venezia. La Roma che per lui era straniera d'averci quasi il visto per entrarci. Oramai è straniera anche per me. E non mi restano che le borgate, ma le borgate senza anima, perché l'anima delle borgate era lui. Addio, Marce, addio, addio! Se ho smesso di sentirmi inferiore agli altri, io lo devo a te. Allora, qualunque cosa tu faccia, dovunque tu vada, chiunque tu veda, per favore, chiama. Non è da tutti testimoniare grazia e bellezza. Tu l'hai fatto e la traccia del tuo corpo non morirà.